Passò quasi una settimana prima che Laura trovasse il suo equilibrio. Aveva preso appuntamento con il tramonto sulla cima di una certa collina. La collina era ripida e la strada tortuosa. Divenne chiaro che il tramonto sarebbe arrivato prima di lei ed era alquanto improbabile che perdesse tempo ad aspettarla. Guardò il cielo e affrettò il passo. Con una nuova e inopinata svolta alla strada, andava a nascondersi dietro un boschetto che Laura aveva preso come punto di riferimento. Si sentiva sempre più affannata e quel piccolo contrattempo le fece perdere del tutto la pazienza. Era stanca, a chilometri e chilometri da Great Mope, e si era comportata da stupida. All'improvviso un raggio di luce dardeggiò da dietro gli alberi, come se il sole, un attimo prima di svanire dietro l'orizzonte, le avesse strizzato l'occhio. «Questa storia deve finire», disse Laura ad alta voce. E si sedette a pensare in un comodissimo fosso. Le ombre della sera che avevano seguito i suoi passi sulla collina le si strinsero intorno, ma Laura tirò fuori la cartina. C'era ancora abbastanza luce per riuscire a distinguere dove fosse la locanda più vicina. La distanza non era molta. Arrivata a destinazione, Laura riuscì a malapena a leggere il nome sull'insegna. Il perché. Entrò e ordinò qualcosa da mangiare e una vettura che la riportasse a Great Mope. Quando lasciò la locanda era una splendida notte stellata. Fuori l'aspettava una carrozza aperta tirata da un grande cavallo bianco. Ripiegate una sopra l'altra sul sedile c'erano un buon numero di coperte impermeabili con tanto di fibbie e Laura le si avvolse attorno con cura minuziosa. Il viaggio di ritorno a Great Mope fu l'esperienza più esaltante che avesse fatto fino a quel momento. La carrozza avanzava cigolando lungo i crinali spogli delle colline e si tuffava giù tra le diverse sfumature di buio di sconosciuti boschi invernali. Le stelle scagliavano dall'alto le loro lance scintillanti e mentre Laura girava la testa da una parte all'altra per guardarle, il gelo le pungeva le guance. Quella sera chiese a Mrs. Leake di prestarle qualche libro. Scelse dalla biblioteca Me'allah, del reverendo Sabine Baring Gould e un vademecum anonimo intitolato Di tutto un po'. Il mattino seguente sorse sereno e soleggiato. Laura lo passò leggendo accanto al caminetto del salottino. Alcuni brani di Me'allah le fecero pensare come dovesse essere romantico vivere nella zona delle paludi dell'Essex. Da di tutto un po' apprese che i cappelli da uomo immersi nella tintura di campeggio acquistano un tocco di rispettabilità e che il materiale migliore per costruire modellini di ruderi è il sughero. Nel corso del pomeriggio imparò altre preziose nozioni di questo genere e infine si addormentò. La mattina dopo si addormentò di nuovo in un bosco di faggi, raccomitolata su un mucchio di foglie appassite, dopodiché non ebbe più problemi. La vita diventa semplice se uno non se ne preoccupa. E Laura non si preoccupò assolutamente di nulla per giorni e giorni, finché Mrs. Leake disse: «Presto sarà Natale, signorina». Natale! Ancora una volta li aveva presi tutti alla sprovvista. In quel momento perfino la parsimoniosa Caroline affrontava gli acquisti dell'ultima ora in Oxford Street. Ma a Great Mope anche il Natale era una cosa semplice. Laura passò un piacevole pomeriggio scegliendo i regali nel negozio del paese. Per Harry comprò una bottiglia di liquore allo zenzero, un paio di ghette di cuoio e della tintura di sassofrasso, un vero toccasana per le sue tosse invernali. Per Caroline, un ragguardevole pacco di lana a filo grosso di vari colori, per l'esattezza tutta quella di cui disponeva il negozio, e una sterlina di francobolli assortiti. Per Sybil scelse conserve di frutta, biscotti ricoperti di zucchero e una liseuse rosa lavorata a mano. Per Fancy e Marion comprò rispettivamente un flauto di pane e una scatola portaspago con la cattedrale di Healy sul coperchio, della quale Mrs. Trumpet si liberò con estremo piacere, perché le era stata venduta con grande insistenza da un commesso viaggiatore, ma non aveva riscosso il favore del paese. Ai pronipoti, un maschio e due femmine, Laura inviò vaglia postale del valore di una guinea e calze di tulle rosa piene di giocattolini di latta. Sapeva che le avrebbero gradite, dato che lei ne aveva sempre desiderata una. Per la Dunlop comprò un utile gancio a laccia bottoni. A conoscenti e lontani parenti spedì cartoline di auguri con fotografie del centro in memoria dei caduti o un un colorato panorama di fiori di pisello con la scritta Saluti da Great Mop. Una cartolina simile a quest'ultima venne inclusa anche a ciascun regalo. Più difficile fu trovare il dono giusto per Titus, ma con un po' di fortuna Laura annotò due massicci vasi di vetro, di quelli che usavano i farmacisti di una volta. Non erano tra le merci in vendita. In uno c'erano i bottoni di stoffa e nell'altro quelli di corno. Ma volendo fare del suo meglio per soddisfare una cliente così munifica, Mrs. Trumpet era dispostissima a venderle qualsiasi cosa. Stava per svuotarli di tutti i bottoni quando Laura la fermò. Dovrà tenerne un po' per gli altri clienti, Mrs. Trumpet. Forse li vorranno mettere nel pudding di Natale. Aveva perso un po' la testa per l'eccitazione. Però vorrei spedirne circa 3 dozzine di ogni tipo, se ne ha a sufficienza. I bottoni sono sempre molto utili. Certo, signorina, vuole che ci metta anche un po' di filo di lino? Mrs. Trumpet era una donna robusta e servizievole. Promise di confezionare gli acquisti con una spessa carta da pacchi e di spedirli 3 giorni prima di Natale. Uscendo trionfante dal negozio, Laura esclamò: «Bene, è fatta!» Lei stessa non avrebbe saputo dire che cosa intendesse esattamente con quelle parole. Si sentiva combattuta tra un senso di entusiasmo per i regali utili e ben scelti e il piacere di andare contro a un genere di buon gusto che per lei non era altro che una forma di autocompiacimento. Sebbene avesse scelto i regali per i parenti con tanta sollecitudine, Laura fu sorpresa di vedersi arrivare a sua volta dei pacchi. Non credeva che si sarebbero ricordati di lei. I doni erano tutti pensati per tenerla al caldo e ponevano l'accento su quel gelo e quegli spifferi che tutti loro avevano pronosticato. Nella lettera che poi le scrisse per ringraziarla, Caroline diceva: «Con la splendida lana che mi hai mandato, ho cominciato a farti un copriletto caldo caldo. Vedrai come sarà allegro e colorato. Spesso mi preoccupo quando ti penso lassù tra quelle colline ventose. Da quello che dici, lì intorno ci sono moltissimi boschi. Con tutte quelle foglie morte deve essere una zona davvero umida». Ripagare gli sgarbi con la gentilezza era un'occupazione religiosa. Laura ammirava Caroline per lo scrupolo con cui l'aveva fatto anche questa volta. Benché la sua famiglia avesse deciso che lei doveva patire il freddo, Laura a Great Mop stava benissimo. Mrs. Leek era un'ottima cuoca, badava alla sua ospite in modo educato e gentile, non faceva commenti e non mostrava alcuna curiosità. A volte Laura aveva l'impressione di aver trovato un'altra Caroline. A quanto sembrava, Mrs. Leek non era una donna religiosa, in casa sua non c'erano citazioni bibliche appese alle pareti, e quando Laura chiese in prestito una Bibbia, l'altra ci mise un po' a trovarla. Prima di consegnargliela, dovette soffiare via la polvere dalla copertina. Eppure, come Caroline, anche Mrs. Leek faceva pensare che il suo regno non fosse di questo mondo. Laura la trovava simpatica e sarebbe stata contenta di avere con lei rapporti meno distaccati, ma far breccia nella sua riservatezza non era impresa da poco. Provò con questo e quello, ma Mrs. Leek cominciò a lasciarsi andare solo quando le parlò del tè di ribes nero. Evidentemente condivideva la passione di Laura per gli infusi. Quella sera le fece notare che faceva lei la birra che beveva a tavola e si soffermò brevemente, con in mano lo strofinaccio piegato a descriverne la ricetta. Da quel giorno, allora, fu offerto ogni sera un bicchierino di liquore fatto in casa, distillato di dente di leone, di primula odorosa, di bacca di sambuco e di barbabietola. Con i suoi complimenti e le sue domande, Laura catturò Mrs. Leek. E ogni sera, quando entrava nella stanza per portar via il vassoio della cena, riuscì a trattenerla un po' più a lungo. Ora della fine di gennaio divenne un'abitudine per Mrs. Leek, dopo aver appoggiato sulla tavola sparecchiata il candeliere per la notte, sedersi per una mezz'oretta a parlare. Quei momenti avevano il sapore di un vero piacere domestico. Dalla cucina, attraverso la parete, si sentiva Mr. Leek che russava. Le due donne sedevano vicino al fuoco, inclinando i bicchieri da cui bevevano serenamente a piccoli sorsi. La luce della lampada illuminava la stanza ordinata e il tavolo lucido e accendeva riflessi di topazio nel liquore al dente di leone. Rovesciava fiumi cremisi sui lati della bottiglia di gin alla prugna. Splendeva sulle due donne che bevevano soddisfatte e proiettava sul muro le loro ombre grandi e vicinissime. Quando Mrs. Leek si lisciava il grembiule, l'ombra nobilitava quel suo gesto come se la donna stesse plasmando un universo, mentre sulla parete il naso e il mento di loro avevano i contorni appuntiti dell'agrifoglio. Era quasi sempre Mrs. Leek a parlare. Parlava bene, sapeva molte cose di tutti e non si decideva ad abbandonare un personaggio finché non gli aveva dato vita nell'immaginazione di chi l'ascoltava. L'argomento preferito di Mrs. Leek erano le signorine Larpe, Miss Minnie e Miss Jane. Miss Minnie aveva 73 anni, Miss Jane 4 di meno. Nessuna delle due aveva mai conosciuto un solo giorno di malattia. Non avevano la minima infermità fisica, né avevano perduto, nemmeno parzialmente, le loro facoltà mentali. Sarebbero vissute ancora per molti anni, non fosse altro che per mettere i bastoni tra le ruote al nipote dissoluto o un uomo di mezz'età destinato a ereditare la tenuta. Per caso, Miss Willhouse aveva visto Lazar Kur mentre faceva una delle sue passeggiate? Sì, Laura l'aveva vista guardando giù dalla cima di una collina. Il parco in cui le pecore stavano rinchiuse in mezzo a un gruppo di castagni, la lunga casa bianca con la facciata inespressa, e aveva sentito l'orologio della scuderia battere i rintocchi di un mezzogiorno deserto. Il viale d'accesso era lungo 8 km. La casa aveva 14 camere padronali e una suite per i membri della famiglia reale. Prima di sposarsi, Mrs. Leek era stata a servizio a Lizard Court. Conosceva la casa alla perfezione e descrisse le camere allora finché sembrò anche a lei di averle viste tutte 14 senza eccezioni. La camera azzurra, quella gialla, quella cinese, la camera rivestita di cuoio, quella col balcone e quella dei ricami. Aveva dormito in ognuna, anzi, si era addirittura svegliata nel letto reale e scostando le tende di damasco rosso aveva visto fuori dalla finestra il sole che splendeva sulla magnolia. Ora quelle camere maestose non ospitavano più nessuno. Lazar Kur era diventata molto tranquilla. La gente dei paesi lì intorno, osservò Mrs. Leek con freddezza, chiamava Miss Minnie e Miss Jane le due vecchie spilorce. Ma lei le conosceva. Per il loro piacere le due anziane signore non badavano a spese e per poterselo permettere risparmiavano su altre cose. Quando invitavano a pranzo il vescovo e gli offrivano coniglio in umido, budino di more e le migliori pesche al Madeira che Sua Eccellenza avesse mai avuto modo di gustare, lo trattavano né più né meno come si trattavano quando erano sole. Lazar Kur era famosa per la sua scuderia di cavalli da corsa, al cui mantenimento venivano sacrificati tutti i lussi più modesti: i cappellini appropriati, le appropriate sottoscrizioni, il caminetto acceso in camera da letto, salmone e cetrioli freschi per i sandwich. Ma il cortile delle scuderie era come il sagrato di un tempio. Ogni mattina dopo colazione Miss Jane compiva il suo giro e tastava le gambe dei cavalli, facendo scivolare sul mantello di seta la vecchia mano nodosa con le dita inanellate di diamanti. Nulla sfuggiva alle due sorelle. La stalla delle mucche, la lavanderia, le serre, il pollaio, tutto veniva attentamente passato in rassegna. Se qualche servitore veniva colto in fallo, doveva presentarsi al cospetto di Miss Minnie nella sala del giudizio. Mrs. Leek non era mai stata sottoposta a uno di quei colloqui, ma aveva visto altri uscirne pallidi o in lacrime, con il grembiule tirato sopra la testa. Persino le bare venivano fatte all'interno della proprietà. Le due sorelle avevano scelto ciascuna il proprio olmo ed erano rimaste a guardare mentre il boscaiolo le abbatteva, riprendendo l'aspramento ogni volta che sbagliava un colpo. Dopo aver dato le ultime pennellate a Miss Minnie e Miss Jane, Mrs. Leek fece venire la pelle d'oca Laura, con la storia del dottore che era andato ad abitare nella casa nuova sulla collina. A Londra era un medico affermato, ma quando si era trasferito a Great Mope, nessuno aveva voluto aver niente a che fare con lui. Si diceva che si fosse intrufolato lì nell'attesa che morisse il vecchio dottor Halley, per poter prendere il suo posto. Si era fatto sempre più cupo, chiuso nella sua casa solitaria, e presto i paesani avevano preso a dire che beveva, finché una mattina venne trovato morto insieme alla moglie. Pareva proprio che il dottore l'avesse uccisa e poi si fosse sparato, e il verdetto dell'inchiesta lo aveva dichiarato incapace di intendere e di volere. I testimoni principali erano un altro medico di Londra, un luminare di quelli per il cervello, che aveva consigliato all'amico di condurre vita tranquilla in campagna, e la cameriera, che una sera tardi aveva sentito il dottore e la moglie sbraitare come due ossessi ed era corsa via terrorizzata, sbattendo la porta e andando a rifugiarsi per quella notte dalla madre in paese. Dopo il dottore, Mrs. Leek passò a presentare Mr. Jones, il reverendo. Laura aveva visto la sua barba bianca pascolare tra le tombe. Era come una capra benedetta legata sul suolo consacrato. Viveva solo con i suoi libri in latino e in ebraico. e con una civetta domesticata che cercava di convincere a dormire in camera con lui. Aveva licenziato Emily la Rossa, la nipote del sagrestano, perché aveva rovesciato acqua bollente su un topo. Emily aveva messo a scaldare l'acqua con le intenzioni più innocenti di questo mondo, ma era stata licenziata lo stesso. Mrs. Leek si soffermò a lungo sull'episodio, poiché quello era stato l'unico gesto autoritario compiuto da Mr. Jones. In tutte le altre decisioni si lasciava guidare da Mr. Gordon, il segretario della parrocchia. Mr. Gordon, l'ora conosceva anche lui di vista, aveva occhi piccoli e battaglieri, la barba rossa e riccia e una peluria fiammeggiante che gli copriva le guance. Abitava in un'improbabile villetta accanto alla chiesa. Ogni mattina andava a casa del pastore e impartiva le disposizioni per la giornata. Bisognava andare a trovare quella certa vecchietta per portarle un piatto di minestra e quella tale giovane per darle una bella lavata di capo, dopodiché ordinare più concime per i cavoli del pastore. Mr. Gordon, infatti, svolgeva per Mr. Jones, oltre alle mansioni di segretario, anche quelle di giardiniere. Aveva persino usurpato al pastore il privilegio di litigare con l'organista Henry Perry. Costui aveva perso una gamba e tradito in un incidente con la corriera, ragion per cui non restavano molte altre professioni a cui avrebbe potuto dedicarsi. Gli era sempre piaciuto suonare motivetti, dato che a sua madre, una vedova che si dava un sacco di aria, aveva un pianoforte al Rose Cottage. Mr. Gordon diceva che Perry Harry incitava i ragazzini del coro a ridere di lui. Alla fine delle funzioni si nascondeva dietro un tasso per piombare addosso al primo corista che osasse profanare le tombe saltandoci sopra. Quando li acciuffava, li prendeva a pizzicotti. I pizzicotti non fanno rumore e tornano utili nei luoghi sacri, dove un sonoro ceffone risulterebbe riverente. Un'estate, Mr. Gordon aveva convinto Mr. Jones a proibire la festa del coro. 3 giorni dopo, alcuni dei ragazzi, giocando con un triciclo, se lo erano lasciato sfuggire di mano e il triciclo aveva imboccato la discesa. Ai piedi della collina la strada faceva una brusca svolta e proprio in quel punto si trovava la casa di Mr. Gordon. Il triciclo aveva acquistato velocità e infine aveva attraversato la siepe finendo addosso a Mr. Gordon che, assorto nelle cure della lattuga, voltava le spalle alla strada. I ragazzi se l'erano data a gambe sghignazzando, ma le loro madri non avevano preso la cosa tanto alla leggera. Quella sera stessa Mr. Gordon aveva ricevuto una grande torta e semi aromatici, 2 dozzine di uova fresche, un pacchetto di sigarette ed altri doni riparatori. La domenica dopo, Mr. Jones aveva annunciato con la sua bella voce tenorile che un membro della comunità desiderava rendere grazie per i doni che aveva recentemente ricevuto a titolo di ammenda. Dal suo banco, Mr. Gordon si era voltato a guardare i ragazzi del coro con aria torva. Se Perry Harry gli era antipatico, il dottore di Londra gli era addirittura odioso. La prima volta che si erano incontrati, il dottore lo aveva sorpreso a spaventare una vecchia in un campo e gli aveva dato del mascalzone dell'ipocrita. Mr. Gordon gli aveva risposto per le rime, giurando che gliel'avrebbe fatta pagare. La vecchia poi non si era dimostrata meglio disposta nei confronti del suo difensore. Aveva tirato in ballo in tono minaccioso una zia zingara, capace di far venire i pidocchi alla gente con uno sguardo. Non fu da Mrs. Leek che Lora apprese questa storia. Fu raccontata qualche tempo dopo da Mrs. Trumpet. Mrs. Trumpet odiava Mr. Gordon, anche se era gentilissima con lui ogni volta che entrava in negozio. Mr. Gordon piaceva poco in paese, eppure riusciva a imporre parecchia cortesia. Rosso, corpulento e temibile, il segretario le ricordava un toro fulvo della fattoria. In un unico aspetto Mr. Gordon differiva dal toro. Lui era un uomo e assolutamente rispettabile. Mrs. Leek raccontò allora anche di Mr. e Mrs. Ward, i gestori dell'agnello pasquale, di Miss Kerlo, la sarta, che allevava un porcospino a pane e latte, e della grassa Mrs. Garland, che affittava camere in estate ed era sempre male in arnese, ma tanto allegra. Sebbene sapesse tutte queste cose dei vicini, Mrs. Leek non era una donna socievole. Le signorine Larpent, il defunto dottore, Mr. Jones, Mr. Gordon e Miss Carloe la chiamavano a sfilare davanti a Lora, ma in modo del tutto spassionato, come la negromante di Endor aveva evocato il vecchio Samuele. Del resto, Great Mopa non era un paese di gente socievole, almeno rispetto ai paesi che Lora aveva conosciuto da bambina. Mai una visitina improvvisata, mai confidenze da una parte all'altra dello steccato, mai che qualcuno indugiasse nel negozio davanti alla chiesa. Era raro che dal bar dell'agnello pasquale si sentissero delle risate. Un paio di volte Lora, passandoci di fronte, aveva guardato dentro e aveva visto i clienti seduti in silenzio, ciascuno con aria assorta davanti al suo boccale. Persino i campanari, terminata la loro esecuzione, si salutavano a malapena e se ne andavano in silenzio ognuno per la sua strada. Laurent non aveva mai incontrato gente di campagna che si comportasse in quel modo, né aveva mai visto un paese che facesse tanto tardi la sera. Nelle case le luci restavano accese fino all'una, alle 2 di notte, e a volte le era capitato di venire svegliata anche più tardi dalle voci che risuonavano sotto la sua stanza. Le aveva sentite distintamente perché la sua finestra, che teneva aperta, dava sulla strada principale. Aveva udito Miss Carlo lamentarsi. Va bene per voi che siete giovani, ma le mie vecchie ossa mi fanno così male che non so proprio come arriverò a casa. Poi aveva sentito la voce di Emily la rossa. Non ci sono ossa più agili di quelle vecchie, Miss Carloe, quando c'è da. Ma a quel punto una voce sconosciuta l'aveva zittita con uno shh. E Lora non aveva più sentito nulla perché il gallo si era messo a cantare. Un'altra notte, qualche tempo dopo, le giunse il suono di un'armonica. La musica veniva da molto lontano, sembrava quasi che qualcuno suonasse in aperta campagna. Laura accese una candela e guardò l'orologio. Erano le 3:30. Si alzò e andò alla finestra ad ascoltare. Era una notte senza luna e le colline si ergevano nel buio come uno scudo. Il suono dell'armonica fluttuava incerto nel vento. Un ubriaco? Ma un ubriaco sarebbe riuscito a suonare tanto a lungo? Laura rimase a letto sveglia per più di un'ora, disorientata e al contempo cullata da quella strana musica ininterrotta, immutabile, che sembrava ormai parte dell'aria stessa. Il giorno dopo chiese a Mrs. Leake cosa potesse essere e Mrs. Leake le spiegò che il giovane Billy Thomas era tormentato da un mal di denti che non lo lasciava dormire e così suonava l'armonica per ore, cercando di non pensarci. Mercoledì il cavadenti sarebbe andato a Burleigh's e avrebbe messo fine al suo tormento. Laura, pur dispiaciuta per il ragazzo, rimase affascinata da quella storia. I voli più arditi della sua fantasia non si erano spinti più là di un ubriaco sorpreso dall'oscurità. Il giovane Billy Thomas aveva un'immaginazione decisamente più fervida della sua. Dopo alcuni mesi, Laura smise di elucubrare sugli abitanti di Great Mope. In loro c'era qualcosa che non arrivava a comprendere. Questo era vero, ma lei si accontentava di restare al di fuori di quel segreto, qualunque esso fosse. Non si era trasferita a Great Mope per indagare l'animo umano. Meglio vagare per le valli, fermarsi a riposare nei boschi spogli, che sembrano così caldi con i loro cuori di foglie rosse per terra, e scoprire qual era il suo segreto se l'aveva. Forse quell'autunno sarebbe tornato a interrogarla. Si chiese se sarebbe successo. Pensava di no, le sembrava che niente potesse più turbare la sua pace. Ovunque si spingesse, le colline le si stringevano intorno come le dita di una mano. Più o meno in questo periodo Laura fece una cosa strana. Nei suoi vagabondaggi aveva trovato un pozzo abbandonato. Era a fianco di un viottolo e intorno al basso bordo l'erba e i cespugli erano ricresciuti fin quasi a nasconderlo. La struttura di legno era rotta e smangiata, funi e carrucole erano state portate via da tempo e l'acqua era sprofondata in basso, visibile solo come incerto riflesso del cielo. Una sera Laura prese guida e cartina e ci andò. Spingendo da parte i cespugli si sedette sul bordo. Era una sera calma e mite verso la fine di febbraio. Gli uccelli cantavano, nell'aria c'era odore di rinascita e la luce indugiava sui campi come se le facesse piacere. Guardando giù nel pozzo, Laura rimase a osservare il cielo riflesso farsi buio e quando sollevò gli occhi fu sorpresa dall'oscurità che andava avvolgendo il paesaggio. Il momento era giusto. Prese la guida e la cartina e la gettò nel pozzo. Udì l'acqua importunata a farsi da parte contro le pareti di pietra. Si rendeva appena conto del gesto che aveva compiuto, ma sapeva di aver fatto la cosa giusta, che fosse un sacrificio al luogo o un modo di abbandonarsi alla sua mercé. Da quel momento in poi si sentì paga di non sapere di quei posti più di chi c'era nato. Arrivata all'ingresso del paese, vide un gruppo di donne ferme accanto alla pietra militare. Erano silenziose a sorte, come sempre. Quando le salutò, risposero al suo saluto, ma non scambiarono una parola tra loro e non appena si fu allontanata si voltarono come un solo uomo e si incamminarono su per il sentiero che portava al bosco. Andavano a far legna, pensò Laura. Quella sera il loro comportamento non le parve strano. Si sentiva come loro, una qualsiasi abitante del paese, e sarebbe stata contenta di accompagnarle nel bosco. Erano diverse dalla solita gente. E perché no? Avevano visto così poco del mondo. Great Mope sorgeva solitario all'imbocco della valle, a 8 km dalla strada principale, e le colline lo separavano dagli altri paesi. Aveva fama di essere un posto diverso dagli altri. L'uomo che l'aveva riportata a casa quella sera, da il perché, aveva detto: «Non capita spesso di vedere una carrozza in quel paese. Se c'è un posto fuori dal mondo, è Great Mope. Non c'è un altro villaggio così fuori dal mondo in tutto il Buckinghamshire. Si chiamerà anche Great Mope, ma io non ho mai sentito che ci sia un Little Mope da cui distinguerlo». Era naturale che persone abituate a vivere in un luogo desolato come Great Mope fossero piuttosto silenziose e chiuse. Così la pensava allora, e Mr. Saunters era della stessa opinione. Le parole di Mr. Saunters avevano il loro peso perché ne diceva poche. Era un giovanotto serio, bruno, che dopo la guerra si era rifiutato di tornare in banca a Birmingham. Viveva in una capanna di legno che aveva costruito con le sue mani e allevava polli. Allora lo aveva incontrato la prima volta in una mattina di gennaio buia e piovosa in cui era uscita di buon'ora. Il sentiero era fangoso e lei, con gli occhi a terra, guardava attentamente dove metteva i piedi. Non si era accorta della presenza di Mr. Saunters finché non gli era arrivata vicinissima. Stava a capo scoperto sotto la pioggia. Il suo sguardo era triste e gentile, rispecchiava l'umore del tempo. E dalle sue mani ciondolavano parecchie galline bianche morte. Lora aveva dato un'esclamazione sommessa, quasi per scusarsi. Quel giovane era così perfettamente in armonia con lo scenario che lo circondava da farla sentire un'intrusa. Stava per tornare sui suoi passi quando lo sguardo di Mr. Saunter si era mosso lentamente verso di lei. «Un tasso?» aveva detto, sorridendo come per spiegarsi meglio. Lora aveva capito subito che si era dimenticato di chiudere la porta del pollaio e aveva fatto di tutto per non mescolare ai commenti dispiaciuti la minima ombra di biasimo. Non aveva biasimato neanche il tasso, sapeva che in un momento come quello ci volevano soltanto parole gentili e nemmeno troppe. Mr. Saunders gliene era stato grato e l'aveva invitata a vedere i suoi polli. Fianco a fianco avevano varcato in silenzio uno steccato e si erano incamminati nel suo campo. Le galline si muovevano vivaci tra l'erba fradicia. Al passaggio di Mr. Saunters si erano affrettate verso il pollaio aspettando il mangime. «Se vuole accomodarsi», le aveva detto, «mi piacerebbe offrirle una tazza di tè». Il soggiorno di Mr. Saunters era molto disordinato ma accogliente. Sul tavolo era appoggiato un cesto di calzini. Lora si era domandata se fosse il caso di offrirsi di aiutarlo, ma dopo aver preparato il tè, Mr. Saunters ne aveva preso uno e si era messo a rammendare. Era molto più bravo di lei. Tornando a casa, Lora si era chiesta a che animale somigliasse Mr. Saunters. Alla fine aveva deciso che non somigliava a nient'altro che a un uomo. Fino a quel momento aveva rifiutato il detto che l'uomo è l'opera più nobile della natura, ma la mezz'ora passata con Mr. Saunters le aveva dimostrato che era veritiero. Così doveva essere apparso l'opera più nobile della natura a Adamo quando camminava tra gli animali, unico guardiano del giardino, integro con tutte le sue coste e il suo equilibrio non ancora turbato da Eva. Lora aveva frainteso quel detto solo perché non le era mai capitato di incontrare un uomo. Forse, come altre opere nobili, l'uomo è una rarità. Forse ce n'è solo uno per volta. Prima Adamo, adesso Mr. Saunters. Se le cose stavano così, era stata fortunata a incontrarlo. Anche quello era un risultato del suo trasferimento a Great Mope. Mr. Saunters le ricordava tanto Adamo che la faceva sentire come Eva, sollecitata com'era da una disdicevole curiosità. Si informò presso Mrs. Leek, ma questa non aveva niente da dirle che lei non sapesse già, a parte che il giovane Billy Thomas andava ogni giorno in bicicletta a dargli una mano. Ma Lora, che non voleva abbassarsi a interrogare Billy, resistette alla curiosità e la primavera venne in suo aiuto. Quell'anno stava mutando la sua concezione della primavera. Lei l'aveva sempre considerata la negazione dell'inverno, una spada verde che trapassava l'armatura arrugginita di un tiranno. Ora invece la vedeva come una mano filiale che slacciava delicatamente l'elmo del vecchio guerriero e gli accarezzava la guancia ruvida. In febbraio ci fu un periodo di bel tempo. Lora passava giornate intere sedute nei boschi, dove le colombelle tubavano di piacere fra i rami. A volte due maschi precipitavano insieme a mezz'aria gridando e lottando a colpi d'ala, per poi tornare a posarsi sui rami tremuli e restituire l'aria alla sua pace. Tutto intorno a lei la linfa saliva. Lora appoggiava la guancia a un tronco e chiudeva gli occhi in ascolto. Si aspettava di sentire un tamburellio come dentro un palo del telegrafo. L'aria era così calda sotto gli alberi da farle dimenticare che era lì in cerca di riparo, ma il vento, per quanto leggero fosse, veniva da est. In marzo prese a soffiare da sud-ovest, portando la pioggia. Ora i campi freddi e tersi si erano fatti fosche e caldi sotto i suoi piedi. Nei boschi le foglie bagnate dei faggi sembravano tizzoni ardenti sotto la cenere.